Canto l'armi dietro il capitano, Odo, Odo, che mi passò la visita in distretto, Etto, voleva far di me un repubblicano, Odo, Odo, per farsi il cadreghino al gabinetto. Il partigiano non piange più, seguì la luce la mamma, fra pochi dì si cala il pian, la mamma ci sarà. Il partigiano non piange più, seguì non c'è la mamma, fra pochi dì si cala il pian, la mamma ci sarà. E allora noi partimmo per i monti, monti, monti, dove incontrammo un altro capitano, Piero, cosa? E lui ci chiese se eravamo pronti, monti, monti, a viver l'ideale partigiano. Poi il partigiano non piange più, se qui non c'è la mamma, fra pochi dì si cala il pian, la mamma ci sarà. Fischia il vento e urla la bufera, scarpe rotte eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir, sì sì, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ed ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì, forte il cuore, il braccio nel colpir. Se ci coglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani, ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor, ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor. Più in alto la bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli per bacco. Addio Bologna bella, o oh dolce terra pia, per una vil menzogna i partigian van via, vanno sulla montagna con la speranza nel cuor, vanno sulla montagna con la speranza nel cuore. Mm-hmm. Oh! disprezzar la vita. Per noi risorgerà la nuova Italia. Nostra gente ritorna sempre invitto nella lotta, il patriota ritorna sempre invitto nella lotta, il patriota. Monte ci siamo fatti lupi, al piano scendere per la battaglia, per la vittoria, al piano scendere per la battaglia. Sarà il grido che salirà mangiar là sui monti vien giù la neve la bufera dell'inverno ma se venisse anche l'inferno i partigiani riman lassù ma se ferito cade, non piangetelo dentro al cuore, perché se libero un uomo muore. Che cosa importa di morire? Venne l'alba e poi